Affiancato a questo libro qua abbiamo un libro di narrativa che è Cometa, con il cui presente scrittore. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 66esima puntata di Fuoco alle Polveri. Buonasera, buonasera amici e amiche bombate. Allora, ciao Bricco, ciao Dlago. Grandi ospiti. Nino, è tornato. Nino e JP. Buonasera, buon pomeriggio. Un piacere averti qua fisicamente. Buon pomeriggio, grazie, grazie. E possiamo dimostrarti il nostro affetto proprio così, toccandolo. Toccandoci. Sì, ci toccheremo. E allora, lo sapevate che nella Kabbalah ebraica Borda 66 Borda annuncia epidemia e morte violenta. Però, non solo, è anche simbolo di ribellione e rinascita. Ah. Angoscia e disordine. Angoscia Come questa puntata. Come sarà questa puntata? Sarà angoscia e disordine. Esatto. Il disordine della rinascita, insomma. Il disordine della rinascita, assolutamente. Allora, iniziamo subito un super pezzo. Dopodiché oggi ci dedicheremo a ottime rubriche e poi improvviseremo croccanti, un po', notizie. Visto che, come sapete, abbiamo avuto 4 giorni di diretta non stop del Festival della Letteratura Sociale, di cui potete già trovare buona parte dei podcast. Mancano giusto gli ultimi del sabato e tutti quelli della... Ah, le caricati di tu? Non tu, ma qualcuno l'ha caricato. C'è tutto, ma c'è meraviglia. Tutto. Che meraviglia. Io ieri ci ho provato, ma il mio internet non funzionava bene. Quindi comunque c'è tutto. Qualcuno nella notte ha caricato tutto. Beh, comunque abbiamo veramente dei collaboratori eccezionali. Eccezionali. Meno male, li paghiamo un sacco di soldi. Vero, sì, sì. Beh, no. È giusto, alla fine. Soldoni. Sì. Sì. Non è vero, non è, diciamolo, non è vero. No, non è vero. No, assolutamente. E niente, dai, allora, fra poco, frizzanti come sempre, con ottime rubriche, scopriremo con quale inizieremo. Ciao. Wombat. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, your attention, please, your attention, please, attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. Eccoci qua, in diretta su Radio Wombat, 16:50 di questo lunedì piovoso, ma siamo carichi come sempre. E sapevate che, allora cito la mia fonte, La fonte di del 66 di oggi è Yo Answer, che è sempre fonte veramente di grande ispirazione. E dice anche che gli abbinamenti al 66, le parole che si abbinano al 66 sono, attenzione, manciata di parole lanciate, fulmine, clandestino, delitto, arbitro, mercato, calice, avvocato, zitella, prigione, letto, infedeltà e paralisi. Ah, che bellezza, eh? Che bellezza. Un pugno di parole lanciate così. Cariche tutto di storia, niente, ragazzi. Ma facciamoci invece struggere il cuore, direi, a questo punto, non dalla cabala ebraica, ma... Oh. Ah, sono io. Ma non dalla cabala ebraica, ma da... Ogora Pets. Che chicca. Cos'è che facciamo? Le misculli salsa verde. Misculli. Misculli le banane. Le misculli in salsa verde, chi le mangia non la perde. Senti che bellezza. Insomma, no. Banane e salsa verde. Insomma, ciao a tutti e viva finalmente da Firenze. Quindi uh-huh! oggi quasi si ritorna al vecchio Dupiezze Core. C'è cioè un po' di più di vicinanza. Allora, io ci avevo in mente di legare la puntata a qualcosa di cui si era discusso durante il Festival di Letteratura che ho avuto il piacere, a cui ho avuto il piacere di assistere nelle ultime due giornate, però no, niente, poi alla fine ho sabotato e ho trovato questa canzone meravigliosa e ho declinato verso le stronzate perché facevano troppo ridere. E quindi vi presento le persone che stanno cantando questa canzone bellissima che è qui sotto, che sono le Figlie del Vento. Sono tre pugliesi e una milanese, un gruppo che si è fondato nel 73 a Milano, però per lo più sono tutte quante tipo di Taranto, di Bari, di Lizzano. Lizzano? Di Lizzano? Di Lizzano, in provincia vicino Mondeggi? Di Taranto, vicino Mondeggi. No, allora no, c'è un altro Lizzano. No, tutte pugliesi che evidentemente studiavano lì hanno fondato questo nucleo, gruppo, hanno provato a sfondare a Sanremo portando questa canzone meravigliosa che è Sugli Sugli Banemane, che pare... Senti che bello, alzati. Tu mi scugli le banane. Insomma, riescono a farsi produrre dalla Car Jukebox, che era quella che aveva avuto i problemi con le orme, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, e producono un CD sfruttando insomma questo filone alimentare culinario che funziona e fa divertire molto. Fanno questo CD dal titolo emblematico che si chiama I carciofi son maturi se li mangi poco duri. Molti gli danno, reputano queste Le Figlie del Vento un po' le antesignane di quel tipo di musica un po' demenziale che è uscita subito dopo con tipo gli Squallor, con Elio e Stereotese che sono venuti fuori negli anni 80, anche se in realtà gli Squallor, e ne abbiamo già parlato, c'erano da prima, erano più o meno contemporanei, 69-71, queste escono nel 73. Chiaramente è una parabola abbastanza breve quella delle Figlie del Vento, che già negli anni 80 non esistono più, salvo poi essere state riesumate da questi programmi tremendi della Rai, tipo da Carlo Conti, anzi addirittura da Fazio, prima in un programma del 97 che si chiama Anima Mia. Vabbè, comunque, sorvolando, ci sentiamo adesso un pezzone loro meraviglioso, tra l'altro scritto, testo e musica da Vecchioni, contenuto all'interno di questo album meraviglioso che è I carciofi son maturi se li mangi poco duri. Ed è meravigliosa, ha una forza questa canzone che stiamo per sentire, la forza di un coro da stadio. Si chiama Tu sei il lattaio. Tu sei giusto. Il lattaio diventerà la vostra prossima suoneria del cellulare. Bottiglia ma si piglia tutti qua il latte. colorerà di blu. Uno sei mai stanco, tu sei bianco, sei di più. Sei lattaio, sei lattaio. Suona il campanello, tu sei bello, ma si sa, sei lattaio di questa città. Con il latte sì, e vivrai di più. Sembra un po' quella "bevete più latte, il latte fa bene" di quella canzone. A tratti sì, però sembra più la storia del postino. Sì, sembra un po' la storia dello spazzacamino nelle canzoni popolari. Lo spazzacamino, insomma, sì. Continuando a parlare di cibo, ci arriveremo più tardi. Parliamo di quella che stiamo sentendo qui sotto. Che cos'è? Lo sappiamo, no? L'elettricista. Dai. Ah, le pa-pa-pa-pa. In tedesco. Sentila, oh, alza il pomodoro. Si chiama Ich frage meinen Papa. Perché oggi si parla dell'internazionalismo di Rita Pavone, un fenomeno che negli anni 60 è stato pari a quello di adesso, visto da noi, dei nostri cantanti italiani, forse la Pausini, ma in maniera molto, molto, molto più scarsa. In tedesco sembra Papa Pomodoro, eh? Penso di sì. Ma adesso, poi ci arriviamo, poi okay, ci arriviamo, scusami. Datemi tempo. Insomma, dico velocemente, questa era torinese, diciamo riesce a esplodere il fenomeno Rita Pavone grazie a un concorso che è il Festival degli Sconosciuti di Ariccia, vicino a Roma, del 62. Aveva organizzato, pensato, inventato e gestito tutti gli anni Teddy Reno, discografico importante, l'abbiamo visto pure cantare. Insomma, questo Festival degli Sconosciuti, che aveva già lanciato personaggi tipo Marcella Bella, che poi lancerà Claudio Baglioni, proprio insieme a Rita Pavone, che finirà anche per gestirlo, questo Festival degli Sconosciuti, insomma. Nel 63 Teddy Reno, che si era preso questa ragazza sotto la sua ala per lanciarla come manager, insomma, nel 63 le fa firmare un contratto con l'RCA e lei parte con questo incredibile successo internazionale, mille pezzi che conosciamo tutti, tipo la partita di pallone, come te, cioè, non c'è nessuno, il ballo del mattone, datemi un martello, il Jegeje, insomma, tanti pezzoni che sono finiti anche nel cinema del tempo, che era un cinema che stava esplodendo, quello italiano veniva diffuso molto fuori. Quindi Rita Pavone uscì anche a mezzo televisivo, insomma, dalla nazione, tanto che pubblicò addirittura con l'RCA, con la sezione americana dell'RCA, pubblicò negli UK, come abbiamo sentito prima, pubblicò con la RCA Victor America negli USA, in Giappone e in tutta la parte dell'America Latina che parlasse lo spagnolo, quella quindi non il portoghese in questo caso, no, certo. Evitiamo il Brasile. Insomma, attraverso altre anche case di distribuzione, sia negli UK che in Germania che in Francia, questo incredibile successo. Tra l'altro, quella che stiamo sentendo è una cosa che lei ha fatto nel 64, e cioè, sappiamo? Che cos'è Viva la pappa col pomodoro? Titolo? No, di che cos'è? Chi la canta questa canzone? Parte Rita Pavone. Ah, è a parte Rita Pavone. Gian Burrasca. Gian Burrasca. E lei faceva uno sceneggiato televisivo nel 64, appunto, sul giornalino di Gian Burrasca, che è questo libro di Luigi Bertelli, una storia di un ragazzino, dei vari suoi... Certo. Questo orfanotrofio. Insomma, con le musiche di Nino Rota, addirittura la regia di Lina Wertmüller, quella che ha fatto Travolti da un insolito destino in un azzurro mare d'agosto, vabbè, tanti film. Bene, la carriera di Rita va abbastanza avanti, se non è che ha un tracollo tra il 68 e gli anni a venire, perché che succede? Decide di dichiarare al mondo il suo amore proprio per Teddy Reno, che era quell'uomo che l'aveva lanciata per il suo manager, okay, con cui tuttora è sposata, però che ai tempi e tuttora aveva 20 anni più di lei e era già sposato e con un figlio a carico, e lei che aveva questa immagine da ragazzina diciottenne pura, okay, piena di forza, piena di autodeterminazione, sposarsi con questo, con quest'uomo molto più adulto fu un grande scandalo, fu cacciata fuori, cioè fu cacciata, fu allontanata dalla Rai, tanto che loro addirittura denunciarono, si amavano così tanto che denunciarono la Rai per essersi offesi per un'imitazione che gli fecero su un programma in prima visione. Quello che stiamo sentendo qui sotto è la versione inglese ed è l'unica che cambia, per ritornare a quello che dicevo. Dice The Man Who Makes the Music, è l'unica che non parla di pappa al pomodoro. Insomma, quella in giapponese? No, penso che fosse questa qui. Penso che mandassero okay, questa in inglese. Ti immagini in coreano. Niente, dopo questo periodo di tracollo, insomma, cerca di reinventarsi in vari modi. Fa musica, fa pezzi con di musica d'autore con autori dietro molto bravi. Prova Sanremo con pezzi più introspettivi nel 72. Vabbè, nel 77 riesce finalmente a tornare sulle Hit Parade con il pezzo che stiamo per sentire, che mi ha consigliato Cav Cav e che gli dedico con tutto il cuore. Tanto tempo fa me lo consigliò, me lo fece scoprire solo adesso, lo ciao, tiro Cav fuori Cav dal cappello. Ciao Cav Cav. E il pezzo si chiama My Name is Potato. Ed è un pezzo che è stato pensato per la sigla di un programma che lei poi fece in televisione, una cosa come quella che faceva Fiorello il sabato sera sul primo canale, insomma, con i disegni di Bruno Bozzetto. C'è un video meraviglioso su YouTube adesso, c'è, che era la sigla di questo programma, e quindi direi che ce la possiamo sentire. My Name is Potato di Rita Pavone, per restare in argomento culinario dopo le banane. Ehi tu, con me? Sì, tu. Well, what do you wanna know? Tu sei la patata? No, I'm not a patata, I'm a potato. Il genio nomata. Oh, that sounds good. L'accento un po' straniero. Yeah, that's true. Dell'americano impero. Sure, I'm an American potato. Tu, that's me. Tu sei un animale, non mangi carne, né erba né uova, ti nutri soltanto di terra sola. Tu, oh, tu, sei la patata, se ti parlo la tua voce mi risponde stranamente con accento straniero. Potato, potato, potato, potato, potato, potato, potato, tu sei la patata. No, I'm not a patata, I'm a potato. Oggi rinomata. You told me that before. Ma c'è un po' straniero. Yeah, yeah, that's true. Dell'americano intero. Because I'm from America, I'm a American potato. Tu. La carne, né erba né uova, ti nutri soltanto di terra sola. Tu, tu sei la patata, se ti parlo la tua voce mi risponde stranamente con accento straniero. Se ti parlo la tua voce mi risponde stranamente con accento straniero. Spero vi sia piaciuta la canzone sulla patata di Rita Pavone. Non sulla patata di Rita Pavone. Questa è la suoneria mia nuova del cellulare, penso. È vero. Il lattaio, forse la patata. Più del lattaio. Sì. Poi i più ultra metteranno il lattaio, quelli più moderati invece sulla patata di Rita Pavone. Bene, ragazzi, spero vi sia piaciuto tremendamente. Io adesso ritornerò nei miei anfratti romani e ci rivedremo, spero presto, continueremo sicuramente a sentirci. Non vediamo l'ora. Fuoco alle polveri. Certo. Viva Radio Wombat, direi, e viva fuoco alle polveri. Thank you. Torniamo in diretta. Oh là là. Oh, let's go. Caro Tuco. Allora, dicevamo che abbiamo appena passato 4 giorni in compagnia di svariate persone. Svariati scrittori. E non solo, ma anche persone sono venute proprio al festival, cioè era veramente pieno. Sì, veramente pieno, tante persone si sono avvicinate a noi che stavamo qua a fare la diretta e li ringraziamo e speriamo che ci stiano ascoltando, peraltro. Ok. Speriamo che ci stiano ascoltando anche oggi. Speriamo che ci continuino comunque anche ad ascoltare. Noi ringraziamo solo quelli che ci stanno ascoltando. No, okay. Dai, anche no, gli altri. No. Su, sono stati bravi, sono venuti, hanno partecipato, si sono interessati. Allora, 4 giorni con presentazioni, ma anche, come vi dicevamo durante il festival, dialoghi, cioè delle tavole rotonde in cui si è discusso di svariate tematiche. Sì. Si è discusso su varie tematiche, si può dire che la domenica per esempio era incentrata più sulla poesia, mentre il primo giorno, il giovedì, è stato sulla narrativa. Nel venerdì invece abbiamo avuto tutta una parte sul diritto alla città e fra l'altro la presentazione della guida che già abbiamo in parte nominato e letto la volta scorsa, lunedì scorso. Poi la seconda parte della giornata, diciamo, è stata più sul fronte, appunto, c'è stato Big Data Individui, era il titolo dell'ultimo tavolo. A che punto siamo? Mi sono perso. Venerdì, stavamo raccontando un po' venerdì, così, in soldoni, come farebbe Tasso. In soldoni, sì. La seconda parte è tutta sulla questione informatica sui Big Data con... abbiamo avuto appunto Daniele Gambetta e poi lo scrittore c'erano Magini, esatto, però infarcita precedente lo scrittore sì. Era lo scrittore, esatto, lo scrittore Magini, sì, è vero, lui e... abbiamo anche appunto e poi fra le altre cose abbiamo fatto queste radio conversazioni, una per ogni giorno, anzi la domenica ne abbiamo fatte addirittura due con ospiti speciali. Emilio Di Treviri mi è piaciuto molto, devo essere sincero. Ah, ok, quindi l'intervista di venerdì. Sì, di venerdì, sì. Quindi il gruppo di ricerca, vi ricordiamo appunto che è un'inchiesta militante riguardante gli effetti o lo svolgimento e soprattutto come si sono comportate la macchina di aiuto all'interno dei vari terremoti che ci sono stati qui nella nostra penisola, in particolar modo nel centro Italia. Nasce, infatti, ci dicevano nel 2016 nasce questo gruppo di ricerca e quindi ci hanno raccontato un po' tutto le prime, tra poco uscirà appunto una prima parte di ricerca che ha affrontato in particolar modo appunto, dicevamo, il centro Italia, le sismi del centro Italia e appunto si intitolerà Sul fronte del sismo, un'inchiesta militante. In realtà, appunto, si diceva dei podcast prima che abbiamo messo tutti i podcast. Ci mancano ancora le radio presentazioni, cioè quello che abbiamo fatto sulle radio ancora non penso sia disponibile, no. In parte sul del sito. Sisma, secondo me, questa sì. Forse questa sì, quella di sabato e domenica ancora no, e quindi nei prossimi le metteremo. Ok, perfetto, benissimo, giusto, perché ne abbiamo avute due sabato e una ieri sera invece. Esatto. Che hanno passato come si non mi ricordo il nickname. Chi? Lello che ci ha raccontato appunto del poeta Al-Nassar. È vero, è vero. Anche la radiopresentazione di sabato è stata interessantissima con il gruppo di ricerca su potere, istituzioni e forme di controllo sociale, un centro di ricerca dell'Università degli Studi di Urbino, sì. Carlo Bo, veramente molto interessante, ha trattato il caso Cucchi e anche loro sono un gruppo di ricerca che vanno a fare tutta un'attività su casi come quelli ora il sì, caso di Cucchi caso era Cucchi. Un caso particolare, loro lo prendono un po' come lo pensano come al caso più grave degli ultimi 10 anni di cronaca nera e quindi si sono concentrati molto su questa cosa, però perché, stanno lavorando su una cosa nuova, sul sì, genocidio. Sì, esatto, sono in realtà appunto sono un gruppo di sociologi e non è che stanno a... cioè, questo era un caso per parlare dello Stato, il caso Hook era un caso di studio per per parlare poi dello Stato, del concetto di Stato. Anche infatti anche Raffaele ci parlava poi in modo approfondito, anche, cioè in modo approfondito, ha lanciato lì anche diversi classici da tenere conto, da leggere per riuscire a parlare meglio e a concepire meglio lo Stato moderno per quello che è. E andranno avanti con le prossime ricerche, di cui usciranno altri libri nei prossimi anni, sono già programmati, e sicuramente cercheremo di averne notizie, intervistarli, perché li vogliamo tanto bene. Assolutamente. Abbiamo avuto Davide Grasso, che ha presentato Evalyn. Sì. Che il tema della Siria del Nord è stato toccato almeno un paio di volte, perché c'è stato anche un altro tavolo sul confederalismo democratico, se non mi sbaglio, nella giornata di venerdì. Benissimo. Giovedì, sì, qua in radio. Di giovedì, sì. Quindi non stiamo a rifare un po' tutto l'excursus, cioè è stato veramente denso di contenuti, e sono tutti, appunto, abbiamo detto, trovabili, si dice? Se vuoi. Sì, se reperibili, vuoi. Li trovate reperibili, tutti. Reperibili sul sito, su wombat.noblogs.org. Ci sono. Però in quei giorni è successo, c'era anche qualcos'altro. C'era anche qualcos'altro. Una grande iniziativa, c'era un sacco di cose, sponsorizzavamo da tempo. Da tempo, sì, che si è svolta venerdì, sabato e domenica. Si tratta della Scia in Mona. È finita, tutti se ne sono andati via un po' a malincuore. Ho visto veramente tante persone. Ho avuto l'occasione di partecipare a un paio di cose. I numeri stratosferici. Dice che per la scemona di sabato, la scemona vera e propria, ci sono state almeno 3.000 persone, delle 3.000 persone in più. 3.000 bici, ragazzi. 3.000 sì. Bici sul ponte all'indiano. Certo, sul ponte all'indiano. Bello. Sì. Ma ci sono le foto tipo dagli elicotteri, queste cose qua? Dagli elicotteri non credo. Dai droni forse, boh, vediamo. A volte ho visto qualcosa dai droni. Bello, a me piacciono le cose che volano. Tutto ciò c'è anche in giro d'Italia, poi magari se la comandiamo. Sì, c'è stato nel frattempo si sta correndo il Giro d'Italia, però la Cemona, devo essere sincero, si è distaccato nettamente da quel tipo di manifestazione. Sono state più e più manifestazioni di solidarietà per il popolo palestinese, contro la decisione del DRCS di far partire il giro proprio da Israele. Ma posso fare una domanda? Io vorrei chiedere appunto a Mario, perché secondo me lo sa, cioè perché il Giro d'Italia deve partire da Israele? Cioè io, è una domanda proprio di ignoranza pura. Ma rispondo io? Sì, perché secondo me sei quello che lo sa. Per i soldi. È la più grossa in assoluto, la più grosso evento sportivo mai fatto nella storia di Israele. Ma perché se il Giro d'Italia non parte dall'Italia? Ogni anno parte sempre fuori? No, parte spesso da fuori. Da una decina d'anni va avanti questa pratica. Ci sono paesi ospitanti all'inizio che in cambio danno soldi per una promozione in realtà turistica, perché poi si attraversano quelle strade per le prime tre tappe. E questa c'è una funzione anche politica, perché il fatto di partire da Israele con una squadra israeliana invitata al Giro d'Italia, insomma, è stato abbastanza incredibile. Sì. È stato un grande rimosso, tra l'altro, io devo dire la verità. Nelle tre tappe di Israele non l'ho assolutamente guardato, però nei giorni dopo ci sono cascato sulle tappe di montagna, quando si arrivava all'Etna, c'era Fabio Aru là, io sono andato a vedere un attimino. Devo dire che nonostante veramente sia stato davvero un grande rimosso, di cui non si è parlato minimamente, ci sono stati molti arrivi volanti, ci sono lungo le tappe degli arrivi tipo per il Gran Premio della Montagna, gli arrivi appunti delle volate nell'inframezzo della tappa, un sacco di bandiere palestinesi, evidentemente messe da dei militanti, degli attivisti che si sono radunati in prossimità di questi arrivi per sventolarle. BDS Italia ha organizzato tutta il boicottaggio e le proteste lungo tutto il Giro d'Italia. Sono stati anche caricati, fra l'altro, a Catania. Sono stati accerchiati dagli sbirri, perché erano nelle prossimità della partenza. Hanno provato a bloccare la partenza, non ci sono riusciti, sono stati accerchiati, sono stati menati ben bene. Hanno ritardato un po' la partenza. Hanno ritardato di un'oretta la partenza, sì. Però io non ho guardato praticamente niente. Ma che cosa sono le BDS? BDS è una rete, si chiama Boicotta, Disinvesti, BDS. Non ricordo. Abbiamo intervistato i compagni di BDS, tra l'altro. Ah, io mi sa che non c'ero. Vabbè, trovi il podcast. Comunque, vergognosa la Rai che non ne ha mai certo, vergognosa, certo, vergognosa, assolutamente. Mi è capitato di guardarla anche il giorno della commemorazione di Moro. Fra l'altro nessunissimo accenno a Peppino Impastato, nonostante si voglia pretendere di essere il Giro d'Italia. Questo vergogna, grande anello raccordante tutta l'Italia. Vergogna. Vero. E quindi, tornando alla Cemona, ci sono... Io ho visto diverse bandiere palestinesi, però l'atmosfera era veramente è stata di una grande festa. Hanno avuto una grande serata venerdì sera all'Emerson, sabato sera al CPA e domenica a Mondeggi. Io domenica mattina sono andato a Mondeggi, veramente è stata un'emozione. Che gioia! Sì, molto molto bello. Tutti molto molto contenti, si sono trovati tendenzialmente bene a Firenze. È successo qualche scaramuccia, naturalmente è fisiologica in questo caso. E con gli automobilisti. Con gli automobilisti, sì. Qualcosa è anche finito sui giornali, è incredibile perché i giornali non mistificano. Sembra che non si siano assolutamente accorti di quello che è successo a Firenze, nel senso che queste 3.000 biciclette non sono finite su su nessuna pagina dei giornali, Per le scaramucce. Se non per questo caso di questa signora che è finita all'ospedale, però chissà. Di sabato, ecco, allora in quel caso lì a un certo punto negli articoli compare Cemona Critical Mass, però ecco, non è un argomento che può essere trattato, deve essere trattato sulla stampa. Di fatto quello che si percepiva era, veramente un'area ribelle, tutte queste biciclette che hanno invaso, prendendo lo spazio. Ma che giro hanno fatto? Cioè, da dove sono partiti? Allora, giri, credo abbiano fatto veramente tanti chilometri. Io ti posso dire che domenica siamo partiti da Piazza Foggi per arrivare a Mondeggio, quindi abbiamo fatto un giro lì a Gavignana, passati dal CPA, poi Ponte Aema, Grassina e via la Salitona. Il sabato partiva dalle Cascine e poi è arrivato al CPA, però ecco, il sabato hanno fatto un grande giro fino addirittura arrivare appunto sul Ponte all'Indiano. Venerdì era una critica un po' serale. Abbiamo provato a fare un collegamento. Nel senso che si capiva poco, forse capiva, con te, tra l'altro, che eri a giro dal festival alla Cemona. E appunto ti dicevo al telefono che sembrava tipo le partenze, non lo so, tipo la fiera di paese. Sì, no, è una cosa. Un inviato Rai alla festa di paese e poi viene assaltato dal. Però è stato una bella molto divertente. È stato bello, sì, veramente tante persone da un po' da tutta Europa, perché ho trovato persone dalla Spagna, dall'Austria, dalla Germania, tantissimi romani. Molto bello, veramente. Bello, bello, bello. I sardi, Eia, non potevano mancare. Assolutamente. Chissà Grande Lago come sta laggiù, tutto bene? Bene. Noi ci possiamo mandare una canzone, direi. Mandiamola, dai. Mandiamo sì. Una canzone, Dai. Try to pin your flowers on. La la la. somebody finds us. Do whatever the TV tells us. Stay inside our rosy minded phones. For days we'll stay inside till somebody finds us. Do whatever the TV tells us. Stay inside our rosy minded phones. So worry not. All things are well. E benvenuti all'Uno dei Balcani. Ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori. 17.32 è l'ora dell'Uno dei Balcani. Storicamente potrei anche citarvi le fonti. I Balcani sono Balcani. Allora, oggi volevo parlarvi del fatto che, di cui già ho parlato a volte, spesso anzi, che i Balcani sono una terra di passaggio. Quindi l'area geografica dei Balcani è sempre stata una terra di passaggio di imperi, di persone e culture. E questo ce lo faceva già vedere, se vi ricordate, quando lessi le fiabe albanesi, che fondamentalmente poi parlavano sempre della respinta dell'invasore, di quello che lo conquistavano, perché effettivamente quelle terre lì sono sempre state soggette appunto alle contese fra vari imperi. A partire da quello romano, chiaramente prima quello persiano. Peraltro lo stesso termine Balcani viene da una parola turca che vuol dire montagna, perché si riferisce appunto alla catena montuosa che divide la Bulgaria. Quelli sono i Balcani, appunto, e viene da una parola turca, quindi non una parola di lì, diciamo. Ma lì vicino, ma di lì. E, tra l'altro, termine che... Prego, prenda pure... Lo so che non si interrompe all'inizio un'emozione, ma ieri disquisivo con un ragazzo. Allora, guarda, lo stavo per dire con Enrico. Bravo, discutevo anche... Ma forse perché eravamo pure insieme. Sì. Forse la stanchezza non ci fa ricordare questa cosa. Discutevamo sul fatto che... No, tienilo, dai. Discutevamo, se non sbaglio, dimmi se era questo, sul fatto su quali fossero i paesi, insomma, che abitano i Balcani. Non citava... Io gli avevo detto che avrei voluto parlare della Bulgaria. Mi diceva, no, la Bulgaria non è concettualmente nei Balcani. In particolar modo non è concettualmente all'interno della testa, diciamo, di chi li abita. Quindi un albanese, un croato non ritiene la Bulgaria facente parte dei Balcani. In realtà poi andando a vedere poi su, per esempio, sulla Treccani, la Bulgaria ce la butta nel mezzo. Ma i bulgari vogliono? I bulgari non si sa. I bulgari in questo stanno passando un momento storico particolarmente travagliato, diciamo, a dir poco. Comunque un paese molto povero, che ha problemi economici da tanto tempo e su cui sappiamo la destra, estrema destra, è riuscita a far presa in maniera molto forte. Diciamo che si sentono più, probabilmente più verso l'area europea o al limite russa, e probabilmente quindi si sentono fuori dall'area balcanica. Non saprei, questa cosa la possiamo chiedere a Enrico, che comunque già ce l'accennava, quindi probabilmente è così. Allora, però, terra di passaggio, perché volevo parlare di terra di passaggio oggi? Perché volevo portare appunto due piccoli esempi di questa cosa della terra di passaggio, in cui le culture si mischiano e si compenetrano fra di loro. La prima cosa è, per rilegarmi anche a quello che diceva Nino, cioè ricollegarmi al cibo. Parliamo di kebab oggi. Kebab. Kebab, no, parliamo in realtà non di kebab, ma di cevapcici. Cevapcici. Cevapcici. Conoscete cevapcici? Certo. Benissimo. I cevapcici è una... sono un Lo piatto... sai dove li ho mangiati io? Dai, dimmelo. A Re di Puglia. A Re di Puglia? Che tu adesso ti aspetteresti di essere in Puglia e dici no, come cevapcici? No, è lì al confine con la Slovenia. Ah sì, certo, giusto. Infatti quella è terra piena dei cevapcici, che poi un pochino sfondano anche poi in Italia, chiaramente, perché là ci sono poi i confini. Poi buoni sono buoni, anche se me li fanno qua io. No, no, certo. Accetto. Però sai, no, come sì, sono è le giusto, cose, è trovo giusto, le cose, ma buoni poi qua. È anche giusto. La... Esatto. Ma lo sai da cosa deriva cevapcici? Cioè, in realtà, letteralmente, vuol dire piccolo kebab. Proprio perché la cultura del kebab, cioè di un pezzo di carne che gira e cuoce lentamente in senso verticale, che arriva, e poi c'è tutta la storia del kebab, comunque che arriva insomma dalla Turchia, diciamo, quindi dalla parte più araba, e con la dominazione dell'impero ottomano si diffuse anche appunto all'interno dei Balcani in generale. Chiaramente la parte musulmana non usava carne di maiale, le parti invece più cattoliche o greco-ortodosse usano anche la carne di maiale. Ah, ma quindi il kebab non è legato a una carne? No, cioè, il kebab vuol dire carne arrosto. O insomma, le traduzioni però vanno... Però tradizionale non è maiale, comunque. No, chiaramente non puoi, è un animale impuro nella religione islamica, quindi non puoi mangiare il maiale. Non c'è neanche il taglio plausibile, cioè... Mangi la mucca, mangi altri animali, ma non mangi il maiale. Mentre invece nelle parti più greco-ortodosse, quindi risalendo anche Slovenia compresa, si mangiano anche fatti di maiale. Appunto, questa cosa delle culture che si mischiano, appunto, è un piccolo kebab. Non era un piatto tipico balcanico e poi lo è diventato. Insomma, chi va nei Balcani sa perfettamente, perché lo puoi mangiare tutto. Io li mangiai peraltro invece in una taverna da camionisti. E quindi con veramente una presenza, un folklore. Ma dove? In Slovenia, no, in Croazia lo mangiai, in Croazia, sì. Quando ero più piccolo, però me li ricordo molto bene. E quindi questo è il primo esempio, appunto, dei cevapcici di questo passaggio, terra di passaggio, e quindi parole bello, e bello, cibi. Bello, bello, molto bello. L'altra cosa, invece, dobbiamo tornare... Aspetta, una domanda ultima. Dimmela. Ma qual è la dicitura lessicale esatta? Kebab, kebab, kebab? Di kebab? Sì. Sinceramente non l'ho cercato. Io ho cercato cevapcici, che viene appunto direttamente dal termine persiano di kebab. E se, ci sono tutti i nomi dei calciatori che finiscono in Isic, no? Sì, è vero, è vero. Ecco, Isic è un diminutivo. Sì, in croato, in bosniaco. E quindi kebab, cevab, cevapcici. Quindi piccolo kebab. Prego, Accademia della Brusca. Esatto. Scusate. Sì, giusto. E infatti si chiama cevapcici o anche cevapi, ristretto sia in Croazia, in Bosnia che in Slovenia c'è anche cevapi, puoi sentire, no? Cevapcici. Però Isic, appunto, dicevamo, è il diminutivo. L'altra cosa invece che vi voglio portare, dobbiamo tornare indietro nel tempo ai romani. Perché chiaramente l'impero romano arrivava e prendeva pienamente, anche perché si scontrano con l'impero persiano e se lo mangia tendenzialmente. Però, appunto, in quelle terre culture forti e millenarie, e quindi non è che potevi devastarle, ma c'era un'assunzione anche da parte di chi del potere dominante, appunto i romani. Sappiamo benissimo, no? Il Pantheon romano poi ha accolto nel tempo tutti gli dei che incontravano, proprio per cercare di avere una convivenza, diciamo, da un certo punto di vista pacifica. Poi comunque era una dominazione. Allora vi parlo invece del tempio di Cibele, presente nel palazzo imperiale romano Felix di Felix Rumuliana in Serbia. Allora, la figata di questo tempio è che c'è una ricerca del 2015, se non sbaglio, comunque forse precedente, ma che ha raggiunto le stampe, diciamo, no, anzi l'area è stata accettata, ecco, diciamo, dalla comunità scientifica. Appunto, questa ricerca di fenomeni fisici e archeoacustici. Perché? Perché fondamentalmente gli i templi vengono costruiti seguendo delle linee geografiche in modo tale che corrispondano spesso a sì. No, lo sapete, il sorgere del sole o... Però questo tempio che hanno queste fricchettonate romane, ma in generale cultiste, già da romani. Esatto. Però in questo tempio che hanno trovato invece c'era una parte di questo tempio posizionata in maniera diversa dai canoni di costruzioni architettonici romani, e si chiedevano perché, e hanno scoperto che praticamente c'è grazie allo studio dell'archeoacustica, appunto, quindi archeologia e acustica, appunto hanno risposto a questo enigma. Praticamente questo tempio e le sue pertinenze sono l'unico luogo all'interno del palazzo, quindi questo tempio all'interno del palazzo Felix Romanum è l'unico posizionato male, diciamo. Non è orientato lungo l'asse est-ovest, come è invece tutto il resto del complesso, ma è tipico appunto della tradizione romana, ma invece è posizionato all'incontrario. Praticamente il tempio segue la direzione di provenienza di alcuni infrasuoni e vibrazioni a bassa frequenza, naturali del terreno, per cui dice praticamente queste piccole vibrazioni impercettibili ti davano un'estasi. E quindi praticamente hanno visto che riuscivano... Ah vabbè, c'è la ricerca scientifica dell'università di... Ha stentato evidentemente a essere accolta dalla comunità scientifica mondiale. Vabbè, questo ci può fare riflettere in effetti, però mi faceva molto ridere questa cosa, perché appunto era una... costruito su un bello, vecchio tempio effetti, sì. Appunto precedente in Serbia, e praticamente queste vibrazioni dice che te la facevano prendere benissimo, ok? A tu che andavi lì a pregare. Certo, e quindi certo. Cioè, dal punto di vista del culto e della... sì. Ma ce l'abbiamo una foto del tempio? Allora, il tempio c'è solo una misera foto così, ma non mi sembra neanche un tempio. La guardo io per tutti gli ascoltatori. No, ma sembrano dei menhir, come quelli che puoi trovare in Portogallo. In realtà sì. Sì. Però insomma, dice c'è appunto questo movimento sismo impercettibile, cioè questa aspetta, com'è che l'ha chiamata? No, ci può stare, dice appunto. Sì, è probabile. La parte mistica era aumentata, no? E quindi è vero. Un passo in più. Guarda, gli ultrasuoni, cos'è? Si parla di ultrasuoni? Sì, allora infrasuoni e vibrazioni a bassa frequenza. Proveniente dal movimento sotterraneo di un flusso d'acqua che possiede lo stesso orientamento appunto di questo tempio che era stato costruito. Sì, sì, quindi, ma sono agenti fisici utilizzati nelle terapie. Peraltro, anche mediche. Quindi i romani vanno lì, costruiscono il loro tempio, ma si tengono il vecchio tempio perché fa sballare la gente va a pregare lì e quindi li controlli meglio. Beh, bellissimo. Allora, continuiamo a parlare di questa terra di passaggi e di appunto mix culturali. Ma poi salendo si arriva a Medjugorje, qua. Certo. No, io tra l'altro ho un suggerimento da darti. Vai, spara. Forse. No, prima finisci, dai. No, ho finito, ho terminato, poi c'è il pezzaccio di oggi che ho portato. Hai mai sentito parlare delle piramidi bosniache? Sì, avevo letto anche un articolo proprio per oggi. Non lo cogli in fallo. Non mi cogli in fallo, vedi, sì. Vedi. Assolutamente. Poi di piramidi, io mi sono anche un po' fogato alle piramidi, ci sono anche le piramidi etiopi pazzesche, sono precedenti a cui, quindi i faraoni neri, c'è tutta una storia incredibile. Quelle bosniache pare, cioè potrebbero essere anche una bufala. Ma non ho capito, poi io avevo trovato questo articolo e mi sono concentrato su esso. Però la prossima volta potremmo parlare delle piramidi bosniache, assolutamente. Allora, vi lascio con la battaglia di Lepanto, 1570, che fu appunto storicamente un grosso scontro fra le due grandi potenze di quell'epoca, appunto, quindi l'Europa con Venezia in prima linea e dall'altra parte l'Impero Ottomano, che si scontrano, quindi murubaubaubau, la battaglia di Lepanto. La spia turca entrò la notte nel golfo, fra le onde del porto, avevi vissato delle lire per non essere scorto, suo bordo, contro le navi nemiche sul posto, rimanendo nascosto, tua riferia, sua maestà, l'entità della flotta pronta allo scontro, la flotta della Santa Alleanza di Venezia e di Spagna, in nome della Santa Fede, dupe della Santa Sede, Genova e Malta, comandate da Giovanni d'Austria che reggeva sull'acqua, una croce d'oro, la resse alta per la durata dell'intera battaglia, la furia batte con un'altra bandiera, un'altra barriera, un'altra frontiera. Dal mare salza da un'altra palmiere, popo bombarda un'altra galera. E l'onda batte con un'altra bandiera, un'altra barriera, un'altra frontiera. Dal mare salza da un'altra palmiere, popo bombarda, popo bombarda. Il vento cambia in un attimo decretando l'attacco. Cristo contro la sublime porta, l'imbocco del golfo di Patrasso, e ruota contro ruota con un attimo impatto, ma la forza d'urto delle galeazze di San Marco travolse ogni ostacolo. Le 38 bocche da fuoco fecero il vuoto sui nemici, il rumore del fasciame schiantato da palle di piombo da 40 kg, sfasciato da bocche da fuoco di 40 tipi che frantumavano troppe brue poppe in rotte mosse da triti precisi. Il contrattacco ottomano non si fece aspettare, arrivarono suonando tamburi che fecero tremare il mare, poi dalle volte gli arcieri scontri in pochi metri, i galeotti morivano incatenati ai remi passati dalle lame. Vieto completo di guardarsi indietro, alla tempesta di frecce si unì un diluvio cieco del fuoco greco, raggiunsero l'ammiraglia reale stringendolo in un morso, volarono i ganci, il suono del rostro sul corpo in legno di cedro, sui lati gli ultimi scontri fra le navi di scorta, fra le navi di Alico sarà posta dalla flotta di Doria, e come vendetta per la sconfitta di Famagosta, la testa morta del pascià fu issata in segno di vittoria perché fosse scorta. Quando scese la sera il mare era pieno di rottami di navi, teste di scavi, superstiti mossero in forze verso la baia vicina, freghi astrati, fuochi alti sui lati dei bastimenti incendiati, solo due navi portarono notizia alla vicina Messina, tombe di morti colpiti, di monchi e spariti, ma la morte come nube sulle frotte dei volti dei molti feriti. A Lepanto alla fine del conto non fu la fine di molto, forse la fine del primato turco sui mari, del primato del mare nostro. Conflitto perenne fra occidente ed oriente, non cambiò niente, cambiarono tempi, armi, ma non l'equilibrio fra le potenze. Le contese fra gli alleati della Lega presente superava la lotta perenne contro le tenebre del nemico di sempre. E come disse il sultano dopo la sconfitta cocente, quando seppe dei suoi capi falciati dalle frecce delle carcasse di navi spiaggiate sulle secche, gli infedeli mi hanno bruciato la barba, crescerà nuovamente. La furia batte con un'altra bandiera, un'altra barriera, un'altra frontiera. Dal mare salza da un'altra palmiere, poco bombarda un'altra galera. E l'onda batte con un'altra bandiera, un'altra barriera, un'altra frontiera. Dal mare salza da un'altra palmiere, poco bombarda, poco bombarda. Fondaci se ci riesci. Tu affondaci se ci riesci. Tu affondaci se ci riesci. Tu affondaci se ci riesci, riesci, riesci, riesci, riesci, riesci. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. E rieccoci qua. Ciao. Salve. Gli infedeli mi hanno tagliato la barba. Arr, crescerà nuovamente. Non cambiò niente, ci dice Murubutu, appunto. Terre di passaggio, si scontrano gli imperi, ma... Vabbè. Beh, sì, è murmiao. Bricobaldo. Allora, ci siamo? Ci siamo, se vuoi ci siamo. Noi ancora stiamo aspettando una sigla per questo evento. Stiamo aspettando la sigla, è vero. Perché ci serve, perché evidentemente ogni settimana abbiamo del materiale. È necessario, veramente. Vi dico solo una cosa. Hashtag Enjoy Respect Firenze. Ecco. Solo questo. Magari andrò a vedere che cosa ci scrivono. Va bene, è una cosa presa dal sito del comune di Firenze. Ottimo, città di Firenze, città di Firenze, senza la data purtroppo, non riesco a dirvi a quando risale, però veramente non settimana scorsa, probabilmente quella prima, non avevamo avuto modo di leggervela, magari l'avete letta da voi. Sono, è una cosa molto importante che riguarda un po' tutti, e appunto hashtag enjoy respect Firenze è così, il comunicato. E leggici, dai. Firenze è una città di straordinaria bellezza, ma può esserlo ancora di più se ognuno di noi, adottando un comportamento educato e corretto, contribuirà a renderla più vivibile nell'interesse di tutti. Enjoy Respect Firenze è la campagna di sensibilizzazione della città di Firenze per ricordare quali sono i comportamenti sbagliati, nella maggior parte dei casi sanzionabili fino a 500 euro, ma anche quelli che sono invece buoni, le buone pratiche per vivere correttamente la città e organizzare al meglio il proprio soggiorno. Solo così sarà possibile garantire la civile convivenza e la tutela dei diritti di ognuno di noi, rispettando l'ambiente, il patrimonio artistico e l'identità di Firenze, una città che è stata la culla del Rinascimento e è sito UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Fantastica locandina. E poi segue tutta una serie di divieti. Vai. E invece una serie invece di cose buone, va bene? Io direi che si leggono e poi magari li votiamo anche. Va bene? Ok, ci sta. Ci siamo pronti. Allora, i divieti. Intanto, strade, sagrati, scalinate non sono né panchine né tavolini. È vietato bivaccare sui gradini dei monumenti e delle chiese, sulla soglia dei palazzi, sulle strade. È vietato sdraiarsi, mangiare, bere sul suolo pubblico. Attenzione, attenzione. Ah, quindi praticamente solo nei ristoranti, giusto? Solo nei ristoranti. Beh, sì. È così. O su un albero, non lo so. Cioè, o a casa tua. Oppure a casa tua, ma se sei un turista la casa non ce l'hai e quindi... 2. Evita giochi o scherzi esagerati che possono mettere in pericolo te e gli altri. È vietato arrampicarti su monumenti, entrare nelle fontane, accedere alle piglie dei ponti. Pensavo anche accendere fuochi. Accendere fuochi. Quello va bene, lo può fare. È divieto nei luoghi pubblici causare pericolo o essere motivo di spavento. È vietato a chiunque sia in stato di ubriachezza frequentare luoghi di ritrovo pubblici o circolare per le strade. In che senso? Ah. Cioè, è vietato essere sbronzi a giro. Ma ti arrestano se sei sbronzo a giro? No, fino a 500 euro. Puntano fino a 500 euro. Numero 3. Peso comunque. Vabbè. I monumenti non sono un bene di tutti. Rispettali. Sono un bene di tutti, sì, rispettali. Okay. Imbrattare monumenti, muri, le porte con scritte e graffiti o con adesivi, lo aggiungo io, è un grave reato punibile dalla legge. Non si può sporcare o danneggiare col proprio comportamento qualunque cosa pubblica. Ok. Poi, Firenze è più bella pulita. È vietato gettare rifiuti sul suolo pubblico, carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigaretta solo e qualsiasi altro oggetto. Li possiamo buttare soltanto dentro l'inceneritore, giusto? Aspetta, ci siamo. Scusa. Ci si arriva. ci si arriva. Sì, no, va bene, è vero. Solo nell'inceneritore va bene. Okay. Poi, Firenze non è uno stabilimento balneare. Il tuo abbigliamento deve essere decoroso in tutta la città ed in particolar modo all'interno dei luoghi di culto. Livorno, merda. No fake. Non comprare merce contraffatta o di dubbia provenienza da venditori abusivi che espongono le loro merci su strada o altrove. Il venditore abusivo è perseguibile dalla legge, ma anche tu, se acquisti da lui, puoi incorrere in sanzioni fino a 7.000 euro. Solo da Gucci, quindi si può. Solo da Gucci. Bene. Puoi andare a comprare. Sì. McDonald's, penso, in dubbia provenienza. Sì, sì, no, ma scherzi. Però quello va bene. Abbassa il volume. Ho detto dubbia provenienza, no. Dubbia provenienza, no, però il no. Mac no. Ok. Il Mac, chissà cosa intendono. Abbassa il volume. È vietato disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle 24 alle 7. Claxon? Sì. Claxon va bene, vabbè. Sì, per esempio. Utilizza i bagni pubblici. Il luogo pubblico è vietare soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dalle toilette, lavarsi, esibire parti intime del corpo. I bagni pubblici ci sono. E che costano un euro a pisciata? Costano un euro a pisciata. 12. 12? Sì, per sopperire ai bisogni fisiologici di 25 milioni di turisti annuali. Sì. E tutte queste cose, naturalmente c'è una postilla, dice, estratto dal regolamento di polizia urbana, norme per la civile convivenza in città. Volete sentire anche Bello. Le buone pratiche prima di passare alla votazione? Beh, a me però... Sì, io voglio fare un commento, Vai. Lo faccio dopo? No, no, prego, prego. Mi sembra di essere tipo... sono stato non tanto tempo fa ai... come si chiama? Ai parchi giochi, Gardaland. Ah, sì, sì. È la stessa cosa. Stesse regole? È la stessa cosa. Non sei stato a Gardaland? Non è vero. Ho iniziato, sono stato poco tempo fa, non sapevo più portarla a casa. Ah, c'è Gardaland, fai a fare un giretto. Stiamo un po' però andando... Sembra in effetti una cosa del genere, cioè la volontà di farti vivere la città davvero in un modo proprio così, come un'attrazione, le norme sono queste, ci devi stare per far sì che questa sia possibile. No. Sì, c'è il regolamento per entrare, l'altezza e tra un po' forse anche, come hanno già fatto a Venezia, forse anche qualche bel tornello per entrare in città, forse prima o poi anche un biglietto d'ingresso. Sì, io trovo veramente scandalose, intanto... È vietato bivaccare sui gradini dei monumenti, delle chiese, sulle soglie dei palazzi, nelle strade. È vietato sdraiarsi, mangiare, bere sul suolo pubblico. Cioè, veramente, non ti lascio un'alternativa. Eh sì, no, casa ristorante. O ristorante, sì, punto. Sì. Eh sì, però se al ristorante poi ti bevi una mezza boccia di vino, poi ci devi anche rimanere chiuso finché non smaltisci. È giusto, perché sbronzo non puoi assolutamente andare a giro. Non stai scherzando, non si può. Comunque un po' serve anche a questo il solo pubblico. Serve a sdraiarsi, a sedersi, a bivaccare, incontrare la gente. Se non mi fa questo, pubblico di che? A cosa serve? A trascorrere? Cioè, diventa un non luogo. La volontà evidentemente è di trasformarlo nella pedana d'accesso alla metropolitana, la via di Firenze. Allora, aspetta, perché ci sono... No, io sono troppo arrabbiato, non lo so. Dobbiamo andare sulle mai. Buone pratiche. Bisogna andare sulle Proviamo buone pratiche, secondo me. Leggiamole, poi commentiamo. Comunque, i disegnini sono carini, ho visto. I disegnini sono carini, sì. Allora, buone pratiche. La numero uno. Consulta il sito www.firenzeturismo.it per pianificare il tuo soggiorno. Usa i bagni pubblici o quelli dei bar o ristoranti in cui sei cliente, fra l'altro. A Firenze puoi bere l'acqua pubblica fresca e gratuita, portati un bicchiere, una borraccia da viaggio e riutilizza le bottiglie di plastica vuote. Ci sono gli uffici di informazione turistica, bla bla bla, qua e qui, qua e là. Se vuoi riposarti o fare uno spuntino, non usare sagrati, scalini di palazzi o monumenti, ma usa le panchine e gli spazi adeguati. Sulle panchine secondo me un appuntino va fatto, perché quando lui dice se vi volete riposare, vi volete sdraiare un attimo, andate sulle panchine. Alcune panchine di Firenze sono state progettate appositamente per non farci si sdraiare le persone, perché senza tetto che si sdraiano sulle panchine sono cosa brutta e quindi non ci possono stare troppo. Lillo, ci stai facendo un po' arrabbiare. Comunque ho visto che c'è non credo. Un tipo di panchina. Aspetta, senti il 6, perché lui dice il addirittura 6. No, utilizza i cestini e i cassonetti per la raccolta differenziata. Se Firenze resta pulita, sarà anche merito tuo. Con questo ci possiamo ricollegare a quello che dicevate prima, l'inceneritore. Sì, certo, ma anche perché la Firenze Green, che non è certa quella che di Nardella. No. Comunque ho visto in Arabia Saudita ci sono queste panchine che praticamente hanno gli spunzoni e te quando, ma proprio che escono fuori. Te quando arrivi lì c'è un cosino, sai, nel calcino e metti la moneta, no? Metti la moneta e questi cosini vengono giù. Stanno tipo un quarto d'ora e poi dopo fa ti devi alzare subito perché sennò fanno. Beh, ma sono vabbè Penso che in Arabia Saudita avessero anche qualche ma secondo me vabbè. Se si va avanti così anche qua le mettono. Dai, qual è il vostro preferito dall'Arabia Saudita? Qual è il nostro preferito? Io mi sa che voto il primo, forse. Strade sagrate e scalinate non sono proprio... né panchine né tavolini. Vabbè. Sì, anch'io voto quello, assolutamente. Blago. Non c'ha il microfono, Blago, quindi... Ricordo qual era, però la mia preferita è sempre lo spazio pubblico, non è posto per bivaccare, quella parte lì è la mia preferita. Quella. Ci è piaciuta a tutti, particolarmente. Quella assurda. A me mi piaceva quello che diceva non si poteva fare il bagno nelle fontane a accendere fuochi, perché non c'è accendere fuochi, però dovevano scriverlo, perché effettivamente non è consono. Tu puoi accenderti un bel fuocherello. Allora, un bel fuocherello, già qualcosa. Comunque no, cioè, già la legge lo impedisce. No, però fare il bagno nella fontana, insomma. No, lo sto scherzando, però insomma è chiaramente appunto incentrato, è un regolamento incentrato su una concezione di città che in parte ci fa anche parecchia paura. Facciamo un grande centro commerciale in tutto il centro sì. E abbandoniamo totalmente Va bene, vai. Fare, sì. Ci metti le guardie, tu in ogni via ci metti la guardia, esatto. Controlla i sacchetti, controlla gli zaini, almeno non c'è problemi, no? Perfetto. Tutti tranquilli e felici, i bambini, tipo nei parchettini dei bambini ci mettiamo un po' di polizia. Così almeno tutto tranquillo. Comunque ragazzi, a parte tutto, a Venezia, non so se se ne era parlato, però hanno montato dei tornelli di accesso a dei ponti che sono sovraccaricati, sovraffollati, chissà perché, nel senso Venezia è una città che da decenni e decenni ha puntato tutto sul turismo di massa, sulle navi a crociera che fanno sbarcare migliaia di persone dal Canal Grande. E adesso si sono resi conto che la città probabilmente non sopravviverà a tutto questo e quindi hanno deciso di chiuderla. Un tornello che prontamente è stato smontato e distrutto da diversi compagni del nord, e è stato puntualmente rimesso il giorno dopo e contornato anche di telecamere. E il simbolo e anche l'atto pratico di una chiusura e di di una città che andrà verso la città. Sì, cioè, non puoi. Cioè, ma insomma, è una roba abbastanza pesa, è una nuova frontiera della, certo, della città vetrina e della città appunto rinchiusa per poi controllare gli accessi, appunto un biglietto prima o poi magari sarà anche una cosa un ticket, sì, è una cosa molto recente questa qua dei tornelli, risale a fine aprile. Sì. C'è la fan, pagata. Sul ponte di Calatrava, se non mi sbaglio, sono stati messi. Sì, però appunto, insomma, ora Firenze è una città ben diversa da Venezia, anche per conformazione ovviamente fisica, però insomma le amministrazioni, è bene che soprattutto le città turistiche come possono essere Venezia, Firenze e altre, è bene che studiano qualche metodo alternativo che non sia né chiuderla ai propri abitanti né aprirla al... e incentivare a un turismo di massa incentrato soltanto su shopping e visita al di fuori dei monumenti. Sicuramente il caso di Venezia è più estremo rispetto a quello fiorentino, essendo circoscritta dal mare, cioè non si espande, è tutta lì, è una bomboniera. È vero, è vero, però anche lì le amministrazioni danno colpa al turismo, dicono bisogna per forza adesso intervenire, però le colpe hanno nomi e cognomi in questi casi, quindi è bene che questi problemi non le paghino poi i cittadini e anche i visitatori delle città, ma piuttosto chi questi problemi li ha creati. E uewe, comunque, arriva un sacco di gente. Persone, buonasera a tutti. Benvenuti su Radio Wombat e benvenute su Radio Wombat. Noi ci abbiamo anche... Oggi regia diffusa. Sì, regia diffusa. Detto questo, che si fa? Forse sembra che ci sia una canzone e poi... Vum, vum. Si sgassa. Ma l'ho annunciato, non ti puoi tirare indietro. Si sgassa. I'm gonna chase you out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out. To outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil old man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt.

E rieccoci qua sulle frequenze di Radio Wombat, AM 1359. Sì, 1359. Altrimenti sì, detto. Sì, anche altrimenti detto così. Anche 135 9. Anche 135 9. Sì, sì. Ci siamo carichi? Come sempre. Ai blocchi di partenza. Sulla griglia di partenza. Esatto. I blocchi di partenza sono quelli dell'atleta. Il mio motorino fa sto rumore. Wow. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Sarebbe un motorino bellissimo. In 2 svai Sekunden arriverebbe da Sesto Fiorentino fino a qui. Pazzesco. Come un lampo andrebbe. E come un lampo vanno anche queste macchine di Formula 1 del 2018, che effettivamente mai abbiamo visto così veloci come negli ultimi anni. Vanno veramente, veramente forti. Sono forti? Ma noi non parliamo di questo. Cioè, perché... Noi parliamo di un'altra cosa. Parliamo di un fumetto. Ah, perché figo. È successo che la Ferrari ha sponsorizzato un giga mega super fumetto. Chi ha perso? Il telefono. L'ho ritrovato. Okay. Perché vi volevo dire per bene come si intitola il fumetto, che è We Race. Eccolo là. Ah. Noi corriamo? Quindi è uscito da poco un fumetto della Ferrari. Sono usciti i primi 4 numeri. Allora, per capirsi intanto, prima pagina, lista degli sponsor del fumetto. Giusto, bene. Shell, Ray-Ban, Casper, Sky UPS, merda, Lenovo, Ablot, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, va bene? Sì, sì, sì. Eccetera, eccetera. Però potrebbe essere anche qualcosa di avvincente. Se noi andassimo su We Race e... Ci stiamo andando con una certa lentezza. Vi parleremo di cosa succede. Questo è un avvicinamento fatto apposta al mondo della Formula 1 per i ragazzini, sì. Che affronteremo appena riusciremo a sbloccare la situazione. L'hai letto un po'? Si va, sì, sì, certo. Sono un grandissimo afficionato. È un fumetto che è uscito soltanto web, non esce cartaceo. Già male, almeno magari non parli. Sì, però già male. Sono usciti 4 numeri, sono composti da una decina di tavole ciascuno. Ah, e ascolta, te lo dedico a te, fratello. Grazie. Perché ti potrebbe proprio piacere. Senti un po', abbassami un po' la base e vi racconto che cosa. La gara più dura di tutte è quella contro noi stessi. La Terra dopo la trasformazione, scritto grosso, trasformazione. La Terra dopo la trasformazione. Un pianeta stravolto e irriconoscibile. Mentre l'umanità intera si sta riprendendo da una corsa folle per la sopravvivenza, due ragazzi si affrontano per il traguardo più importante di tutti. Scoprire chi sono davvero. Un inaspettato evento geologico ha trasformato la faccia del pianeta e la vita di ogni singolo abitante della Terra. Continenti, paesi e nazioni non esistono più. Resta solo il genere umano e la sua lotta contro l'estinzione. Ecco, questi sono i presupposti del fumetto. Uno diceva cioè potrebbe essere il nostro amico Tuco. Vai zoom. Il nostro amico Tuco ti ha ascoltato a bocca aperta. Ti è piaciuto, Tuco? Figo, cioè boh. Uno dice figo, vero? Allora, arriviamo. Volete vederlo come il fumetto? Sì. Eccolo qua. Iniziamo, primo numero. Questo è tutto il clima in cui ci addentriamo. E dice, ecco un po' di un paesaggio, vedi, un po' disfatto, sì. Post bellico, qualcosa certo. Del genere. Le regole del gioco sono cambiate dopo la trasformazione, ma questo mondo non ha lasciato desolati i nostri cuori. Questa squadra, eccolo, nasce dalla nostra passione. Non dimenticarlo mai, è su questa certezza che costruiremo una grande stagione. E si inizia. Finita l'ambientazione, certo. E si parte con la gara, in cui conosciamo subito il nostro protagonista. Eccolo là, è Barbetta ragazzotto. O... Barbetta è il team mentor. Manager, bravo, bene, bravo. Bene, sì. Allora, chiariamo questa cosa. Certo. Ci sono due team in questo fumetto. È finita l'introduzione per dire nessun mondo. Cioè, lo scenario che è stato tratteggiato è nell'introduzione. Ok, e poi? A voce, cioè. E nei scenari, perché ogni gara una la fanno tipo in una specie di tunnel subacqueo con tutti i bulloni tenuti, un'altra tipo in una montagna con pezzi di cose a giro. Per il resto in realtà è tutto un po' assurdo, perché c'è una mega organizzazione che realizza un campionato mondiale con la telecronaca, la televisione, nel mondo finito. Gli spalti pieni nel mondo finito. Cioè come se tutto il mondo si fosse volto alla Formula 1. Chi vince c'ha l'accesso all'acqua per sempre. Una cosa o... incredibile. No, sarebbe bellissimo se nel ci senso, fosse tutto questo. Ma in realtà mille, allora, guardiamolo proprio per bene. Inizia e eccolo là. Questo ragazzotto qua vestito di rosso è Lucas, bene. Il protagonista. Capiamoci bene, lui è Vettel. E infatti è un biondino, rappresenta Vettel, pelle chiara. Questo qua accanto, Maurizio, arriva bene. E infatti, barbetta, il capello un po' così, occhialo. La pancetta. Sì, Maurizio arriva bene, il team capo della Ferrari. Che è un mentore buono, saggio, protettivo. Okay. conosciamo anche però che le ha viste, si vede che è uno vissuto e le ha viste di tutti i colori. Sì, le ha viste di tutti i colori, è un uomo saggio e navigato dalla vita. Certo. Ecco il cattivo, che sarebbe Hamilton, perché non te l'aspetti, perché ecco l'ultimo cambio, cioè per adesso è tutto uguale, la macchina scura è quella dei nemici, la macchina rossa è quella della Ferrari, il simbolo della macchina rossa c'ha il cavallino rampante, si chiama Red Team, bene. È chiarissimo, quello è uguale a Riva Bene, l'altro è uguale a Vettel, cosa cambia Hamilton? Che non l'hanno fatto biondo allampanato, non l'hanno fatto afro, ma è biondo allampanato e con la pelle bianca come il latte, giusto per far capire. E due meravigliosi baffi. E con dei meravigliosi baffi, è vero, che gli danno un'aria di maturità che in effetti non ha, perché un ragazzotto l'altro giorno si è fatto le treccine, non lo so se l'avete visto. No. La prima di Spagna c'ha le treccine, cioè. Bel ragazzo. E niente, e partiamo subito. Prima gara, questa fanno vedere la macchina, no? La vedete la macchina. Stringe la mano e dice in bocca al lupo. E ecco l'annuncio a telecronaca. E si parte, secondo numero della prima gara. Beh. Ora, io senza senza andarlo a vedere vi racconto cosa succede nel campionato. Prima gara. Prima gara, allora abbiamo capito il team, no? C'è il campionato. Te stai dicendo non l'hai visto e ti immagini come... No, l'ho già letto. Okay. Cioè ci sono solo due personaggi, non si vedono comprimari, non c'è nessun'altra voce a parte questi che abbiamo visto, sono soltanto loro. Vettel, l'antagonista, il team principal, fine. E la telecronista, che di volta in volta annuncia è la presenza femminile in tutto ciò. Certo. Lucas è il nostro eroe, che sarebbe la Ferrari. E Jim Yeager è il capo, è il pilota degli altri, degli Stargazer, che sarebbero cattivi e figurano la Mercedes. Prima gara vince Jim Yeager, il cattivo. Vabbè, certo, sì, se lo mangia. Quell'altro però è il climax che lo dice. Però capiamoci, Jim Yeager è uno un po' navigato, un campione ormai. Quell'altro però è un giovane focoso. Però piano di sé. No, ancora esatto, un pochino si deve regolare, ma è già un giovane dalle migliori aspettative. Okay. Prima gara vince Jim Yeager secondo. Seconda gara vince Jim Yeager secondo. Terza gara vince il nostro Lucas finalmente, ma non grazie a se stesso, grazie alla scuderia che gli fa fare una super strategia, quindi è tutto un inno alla Ferrari. Okay, due su tre. Quella, sì. Buono. Quella dopo cosa risuccede? Rivince Jäger. Ah, è cattivo. Cioè, si parte in salita per poi... Okay, per e poi c'è la gara dopo. Certo. Siamo quindi arrivati alla quinta gara dove rivince il nostro, e sempre grazie alla scuderia che fa un azzardo che indovina le gomme da bagnato anziché le gomme. Quindi tutto mette alla scuderia in realtà. Penultima gara, fine, siamo quasi arrivati, un quarto di cinque numeri, siamo alla penultima gara e Yeager sta partendo dietro, con un sorpasso al limite riesce a superare l'altro ma poi gli si rompe il motore. Ciao. Quello dietro, il nostro Lucas, che sarebbe la Ferrari, no, accosta, si spenge perché dice me la voglio giocare all'ultima gara. E allora arriva Yeager, che sarebbe Hamilton, che scende, gli stringe la mano, no, non ti avevo capito, sei un grande campione, ce la giocheremo, davvero campione, eccetera. La prossima settimana esce il numero. Vediamo loro. E allora noi, carichi di tutte queste aspettative, andiamo a vedere come andrà la gara finale del campionato fra Jim Yeager non e lo Lucas. Ancora, ma non allora lo io non domanda, nessuno ma... tranne il fortunato fumettista che ha preso questo appalto dalla Ferrari, sì, probabilmente sì, ha una sì, palla di botto di fatti. Ma queste macchine corrono normali o c'hanno armi o non parlano di niente, Guido, cioè ascolta. Tuco, ascolta, è una cosa. Allarme rosso, allarme rosso. Non parlano di niente, va bene, ho capito. Allora, l'altra cosa che voglio dirti è questa: ma la Mailetta invece è la versione di Paperino della Ferrari e del mondo della Formula 1. No, pazzesco, mio. La Ferrari si chiama con la P e la Papernold e la c'è tutto. Pazzesco, bene, cioè Paperino sbaglia strada, sbaglia nel circuito. Abbiamo un materiale, mi pare, per questa rubrica. E per si trova, i e si trova in anni. Mezzo all'autostrada, mi sbaglio. Vabbè. Quindi, mi raccomando, dammi tutto, io me li tengo in caldo, arriverò con sorpresa. Però le ricerche te le porto, te lo giuro, perché... Mi raccomando, mi raccomando. Va bene. Ciao, dopodiché? Ah, basta. No, basta, fine. Siamo in attesa. Siamo in attesa. Settimana. Grande attesa, grande attesa. Io vi dico che lo leggerò. Ecco. Vale la pena. WeRace.com. Godetevelo proprio, sì, sì. Vi giuro che ne vale la pena. Ne vale la pena. Senti. Ma allora, vette inarrivabili. Sì, noi ormai confermiamo che veramente i nostri soggetti preferiti ormai sono Nardella e Hamilton, sì, come sì, ormai sì. È così, anche se due poi guide sono, sì, o due nemici, insomma, abbiamo trovato di chi parlare. Sì, i nostri fari nell'oscurità, o le nostre oscurità nelle nostre luci. Fari, vabbè, sì. L'andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere questa puntata senza... di oggi. Abbiamo sulle spalle quattro giorni di diretta e si sente probabilmente. Sì, probabilmente si è sentito. E, però. Tranquilli, ci sentiamo lunedì prossimo. Lunedì prossimo, tra pochissimo la rassegna eventi della settimana. Che yes, comunque continua, il mondo continua ad andare avanti, anche se noi siamo stanchi. Sì. E alle 21. Alle 21, Coccoli al striscio. Dai, Boni. Wombat.